Questa penultima canzone penso che possa riguardare la vita di tutti. Descrive in poche parole, ma in profonde, con profonde parole, delle grandi emozioni. E sono sicuro che vi piacerà. I migliori anni della nostra vita. Prego. Come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza il volo soltanto la porta. C'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Come l'altra gente, questi sogni resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, tutti, tutti, tutti. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, che nessuna notte è finita. I migliori anni della nostra vita. Restare al buio abbracciati come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai per tutti, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, che nessuna notte è finita. I migliori anni della Saint.